24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui, sono le 8. Sono le 8. Quegli esordi veramente, ma magari fossero le 8. Sono le 6:34 minuti. Sono le 6:34 minuti in diretta e siamo fino alle 9 con voi, con il nostro Carmelo Lauricella in regia, la nostra Miriam Lucchetti in redazione e chi c'è? Il consigliere, il presidente del consiglio. Relax. Come sempre, please relax. Siamo pronti con il nostro bar condicio, possiamo aprire le nostre serrande. Ma un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, ecco, meno male che c'è l'offerta del caffè. Da parte di Nicole Minetti, come sempre, voglio salutare Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Magari fossero le 8:34. Sentite, sconsolatissimo De Manzoni. Cioè, proprio a dire, manco anche stamattina mi avete sbrandato, disgraziati. Saluto Alberto Forchielli che ritorna con noi, presidente dell'Osservatorio Asia. Buongiorno Forchielli. Buongiorno, grazie, buongiorno. Dove si trova nel suo peregrino? Imola. Ah, Imola. È andato già a votare per le primarie per Bersani? No. No, questa è roba passata. No, roba passata. Allora, vi voglio subito mettere di buon umore. Fiorello, ieri, sentite cosa ha detto di tutte le promesse di Berlusconi, eh? Leva l'IMU sulla prima casa, poi compra Balotelli e fa due gol ieri alla prima. Addirittura restituirà l'IMU, secondo me, altro che Presidente del Consiglio, lo fanno Papa. Se fa quello che ha detto, lo fanno Papa. E poi santo. Silvio XIII. Silvio XIII, Forchielli, le piace sta cosa. Papa Silvio XIII. Eravamo arrivati a Silvio XII, credo. Ma sarebbe anche un bel Papa. In che senso bello? Eh? In che senso un bel Papa? È un Papa che fa sognare. Ah, ecco, appunto. Eh? Questa cosa dell'IMU. Restituisce l'IMU. Lei ce l'ha la casa, sì. Ha pagato l'IMU quest'anno. Io ho pagato una fortuna. Credo che non vada la pena, se non valga la pena di commentarlo. Se... E perché? Ah, adesso me lo devi dire, sei imbazzurlito. Beh, sì, ossia, sono cose assolutamente realistiche perché questo paese, col debito che ha, si portiamo avanti un fardello. E non, con la bassa crescita non c'è possibilità di ridurre le tasse nel medio termine, in nessun modo. Anzi, delle due si dovranno trovare sempre nuove basi positive. Ma in realtà ieri ho sentito Matteo Renzi, era da Lilli Gruber, non so, oggi ovviamente subito anche voi di Libero, a farci mezza pagina, a dire in realtà questa cosa dell'IMU, cioè si può anche fare, cioè uno vuole, è stata già cancellata l'IMU, si tratta di trovare Massimo De Manzoni, 8 miliardi però. Cosa 8 si può fare? Si può, no, fare. Vabbè, sono 4 più 4, sì. Nel bilancio, per noi sono una cifra enorme, nel bilancio dello Stato 4 miliardi. Non è che siano proprio una roba da far tremare le vene dei polsi. È già successo, aveva abolito l'ICI a suo tempo, Prodi aveva restituito la tassa, la supertassa per entrare in Europa, per cui anche la restituzione della tassa è una cosa compatibile. Certo, avevano trovate le risorse, questo è evidente. Sì, però De Manzoni, insomma, mi sembra un po' la fiera, come dire... delle promesse, cioè voglio dire, quando Fiorello dice lo facciamo Papa, ridiamo l'IMU, ridiamo lì. Tutte le campagne elettorali in tutto il mondo sono la fiera delle promesse. Il problema non è fare le promesse in campagna elettorale che poi giudicheranno gli elettori, il problema è mantenere le promesse. E qui in Italia è impossibile. Addirittura, impossibile. Il problema vero è che è quasi impossibile, perché poi quando uno viene eletto, con il sistema istituzionale che abbiamo, difficilmente è sempre colpa sua quello che succede, o meglio, c'è un sistema di alleanze, di meccanismi, di contrappesi, per i quali quando uno viene eletto e non fa le cose, poi alla fine può sempre dire io non le ho fatte, ma non è colpa mia, Capito. Colpa del sistema, ma, è colpa di quell'altro. Ma cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna dare tutto il potere nelle mani di uno? Bisogna, secondo me, una delle prime cose da fare è cambiare il sistema elettorale e l'architettura istituzionale del paese. Io da quel punto di vista, quando a un certo punto venne tirato fuori il semipresidenzialismo alla francese e la votazione col doppio turno, per un attimo ho pensato, ehi là, ci siamo. Ci siamo. Poi non se n'è fatto niente, però sono quei sistemi che funzionano. Tanto è vero che in Francia, il giorno dopo, un minuto dopo le elezioni, hai un governo, sai chi governa e tutto quanto. Sì. Adesso noi avremo se i sondaggi dicono il vero, rischiamo di avere un pateracchio alla fine. Non si sa chi governerà. Insomma, Forchielli, qui dice Massimo De Manzoni, va cambiato il sistema di poter governare il paese, un paese ingovernabile. Musica per le orecchie di Forchielli, no? Siamo un paese ingovernabile, Forchielli. Beh, sì, secondo me è un sogno cambiare la legge elettorale, perché tutti i partiti vorrebbero cambiarla e la Costituzione dice anche De Manzoni, cioè proprio ci vuole una maggioranza tale per cui non si trova l'accordo. Ci riuscì Berlusconi nel 2005-2006, quando pensava di perdere nelle elezioni del 2006, fece quel pateracchio per cui ci ritroviamo con due sistemi diversi, la Camera e il Senato, con il rischio di avere due maggioranze diverse. Lui ci riuscì, aveva una buona maggioranza, e noi stiamo scontando un ulteriore disastro fatto da quel governo lì. Ma comunque non vedo le prospettive per cui si possa cambiare una legge elettorale. Allora, visto che Forchielli non si può commentare l'IMU, commentiamo questa, sempre Berlusconi ieri all'aria che tira da Mirta Merlino, poi ha un po' corretto il tiro nel pomeriggio, però aveva proposto il condono tombale. Ma la promessa del condono, una promessa che lei può fare? La promessa del condono, io sarei assolutamente d'accordo nel farla, è sempre stato avversato dalla sinistra in una maniera totale, sempre. Cioè lei vorrebbe fare il condono tombale a patto sì. che però avesse Credo una maggioranza che ci per sia farlo? Assolutamente bisogno, se ci fosse la maggioranza io penso che dovremmo farlo. Forchielli, siamo ancora all'era dei condoni, i condoni dal 73, la CGA di Mestre ha calcolato che i condoni hanno portato 168 miliardi, circa il 4% più o meno di quello che si pensava di tirar su. Mamma mia, ma questa storia del condono, Forchielli, cioè nel senso tu hai evaso, però è un bel condonino e sistemi tutto con una bella cifra, con una cifra che... Ormai ne hanno fatti tanti che marginalmente ogni condono vale sempre meno, adesso poi... Ma l'idea del condono in Cina come funziona? L'idea di un condono, no? Lì agli evasori cosa li fanno? Gli tagliano le mani, li mettono al muro. No. Come no? Sì, li mettono al muro se li beccano. Sì, no, in Cina evadono tutti, anche perché il sistema fiscale è molto arretrato, per cui l'evasione è estremamente diffusa. No, invece come esempio vanno presi gli Stati Uniti, dove il IRS ti perseguita anche per 600 euro. Quello è un disastro. Sarebbe quello il metodo giusto? Sì, ma presuppone un livello di informatica, presuppone... Per esempio, gli Stati Uniti sono durissimi coi paesi che ospitano i capitali americani, sono loro che hanno schiodato la Svizzera, per esempio, capito? Per cui per un cittadino americano portare fuori i soldi è una roba che lo trovano anche nelle mutande glieli trovano. Papua New Guinea, capito? Ossia, non c'è niente da fare. Invece per noi cosa vuole, non riusciamo a avere quella presa. Sì. Se sono gli Stati Uniti che hanno il potere politico di smontare i paradisi fiscali. Noi non... No, ma sì, questa storia, Massimo De Manzoni, i condoni, siamo ancora a questo, il condono tombale, adesso onestamente, ma come si fa a proporre? Cioè, proprio culturalmente, noi italiani vogliamo i condoni. I condoni sono sempre una pessima cosa, questo è evidente, anche perché sono normalmente una resa dello Stato. I condoni si fanno quando si volta pagina, tra l'altro, cioè bisognerebbe parlare di un condono quando si cambia tutto il sistema fiscale, allora si tira una riga e da lì si riparte. Sì. A questo proposito voglio dire che la pressione fiscale negli Stati Uniti non è paragonabile a quella italiana. Il sistema fiscale negli Stati Uniti non è paragonabile a quello italiano, cioè il rimborso per esempio sugli scontrini, cioè tu le tue spese le puoi detrarre, e quindi è un incentivo ovviamente a non fare nero, a non favorire il nero anche da parte del cliente nei confronti del negoziante. Comunque, insomma, diciamo che il buon Bersani ieri alla Piazza Pulita da Corrado Formiglie ha condito così le sue promesse. Dice: io non farò mica a questo livello, non scenderò a promettere di rimborsare, sentite cosa. Spero che la gara si fermi, ecco, io sia chiaro che io non ci sto. Cioè io non vado nei prossimi 15 giorni a promettere che rimborso i viaggi di nozze. Sia chiaro. I viaggi di nozze, io non prometto di rimborsare i viaggi di nozze, cioè secondo Bersani siamo a questo livello, insomma, a promettere cose che poi non verranno mantenute. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo qui. Togli, metti, togli, metti, togli, lasciatemi l'IMU, voglio pagare l'IMU, io non posso vendere il mio voto per un po' di IMU, lasciatemi l'IMU. Caro Alessandro, dopo aver sentito la proposta shock di Berlusconi, non ho potuto fare a meno che mettere i maroni su un tavolo e cominciare a dar sopra delle martellate. Ah, ti dirò che mi sono venuti persino i lacrimoni agli occhi. Peccato che questo non si possa fare anche con i nostri beneamati politici. Ciao Alessandro, oggi ho stipulato un nuovo contratto di assicurazione per l'auto di mia figlia. Mi hanno applicato la mia classe di merito, la prima, legge Bersani. Ho ricontrattato il mutuo di casa a un tasso decisamente più vantaggioso di quello precedente e non ho speso un euro, sempre legge Bersani. Ho comprato prodotti medicinali da banco in un supermercato pagandoli meno della farmacia, grazie alla legge Bersani. Di tutto questo, caro Alessandro, a te non importa nulla. A voi, dei programmi politici, non ve ne importa un emerito cazzo. Alessandro mio, basta lamentarsi della mancanza di programmi. Questi qui lo sanno benissimo che in campagna elettorale non servono a niente. Perché vedi, gli italiani sono per un terzo delinquenti, evasori, corruttori, truffatori, e questi sono tutti inevitabilmente per Berlusconi. Per un terzo deficienti, basta che gli compri Balotelli o gli prometti di togliergli l'IMU, sono pronti a buttarsi nel burrone come pecore. Per un terzo sono gente per bene, ci hanno la testa più o meno additata. Ma questi, Alessandro mio, sono disperati. A che gli servono i programmi? Mi devono solo durarci il naso. Allora, senti questa. È meglio avere uno scoiattolo nel giardino di casa che un topo che ti mangia i mobili dentro casa. Va bene? Questo qui è un po' più facile di quella del tacchino. Vabbè, sono le voci della nostra segreteria telefonica. Siamo con Alberto Forchielli. L'hai capita, Forchielli, questa del topo e dello scoiattolo in giardino? Meglio lo scoiattolo in giardino che il topo che ti mangia i mobili in casa, eh? Detto da un bolognese, soprattutto. Esatto. Ma penso, certo. Non è male, non è male. Ma guardi, che io c'è? Ormai sono d'accordo con la signora che dice che i voti di Berlusconi danno un'idea del tasso di rincretinimento di questo paese. Eccolo lì, capito? Questa è la teoria di Forchielli, De Manzoni. Cioè, chi vota Berlusconi? Un quadro internazionale. Sì. I musulmani lo odiano per i suoi comportamenti privati. Addirittura. Gli americani puritani lo detestano per quello che è, tanto vero che al 150esimo dell'unificazione d'Italia Obama non venne per non stringere la mano a Berlusconi. Addirittura. I cinesi lo detestano perché ha detto che mangiano i bambini, è andato 18 volte da Putin, non è mai andato in Cina. Gli europei lo odiano perché l'hanno conosciuto da vicino. De Manzoni, ma dove li compra tutti questi voti, Berlusconi? Insomma, la teoria di Forchielli, insomma, che della signora, chi vota Berlusconi è imbazzurlito, insomma. Ma assolutamente. È un delinquente chi vota Berlusconi. Il grande problema della sinistra in Italia è sempre stato questo, cioè il disprezzo nei confronti di quello che non capiscono, e siccome non capiscono una montagna di cose, le disprezzano. Allora, è così, modo, intanto, però, passetto, Berlusconi è arrivato a meno 4 punti oggi Libero scrive che a meno 4% saranno i sondaggi. Sondaggi, cioè alcuni, si sa, però i sondaggi, insomma, non è che sono scienza infusa, però certo, i sondaggisti dicono che la rimonta c'è. Io però vi voglio far ascoltare una cosa di Mario Monti, perché non l'ho capita proprio. Ieri qui avevamo tre Monti che ha detto è un po' difficile l'applicazione dell'IMU, e poi ha detto ci vorrà una manovra da 14 miliardi chiunque vinca. Infatti questa non è andata sui giornali, ma comunque insomma ha detto questa cosa, che non sono qui squiglie. Tremonti ha detto chiunque vinca ci vorrà una manovra da 14 miliardi, questo è il suo parere. Sentite Monti come ha risposto, cercate di aiutarmi perché io ho capito a metà. Lui appartiene a un girone dantesco di scienza particolarmente poco riconosciuta nel mondo accademico, devo dire, ma molto creduta da chi partecipa ai dibattiti politici. Io non intendo prenderlo troppo sul serio. Ma che vuol dire? Cioè, Forchielli, io adesso non sono un cultore di Dante. Qual è il girone dantesco a cui apparterrebbe Tremonti di una scienza particolarmente diffusa, no, di una non scienza? Ma che girone lo mettiamo, Tremonti? Girone dantesco? Non lo so, io non... Quello non l'ho capito neanche io. Certo che ha bisogno di Tremonti, anche lui ha bisogno dei suoi spazi, quindi questi sono i suoi spazi. Lui è un fiscalista, per cui capito, può parlare solo di quello. Il girone dei fiscalisti. Non so, De Manzoni, tu hai capito di che girone dantesco parlava Monti? Dei commercialisti. Non è il circolo Bilderberg, quindi probabilmente tutto il resto è il girone dantesco agli occhi di Monti. Ma non lo so, io un girone dantesco, facciamo parte di un girone dantesco. Vabbè, intanto Forchielli, leggo sui giornali che arrivano i sindacati liberi in Cina, sbarcano in Cina nelle fabbriche della Apple, quelle della Foxconn, no? Quelli dove fanno tutte. Arrivano i sindacati anche in Cina, arriva la CGIL, arriva la Camusso in Cina, Forchielli. Sì, è giusto, nel senso che hanno bisogno in Cina di aumentare il potere d'acquisto, per cui bisogna aumentare gli salari, che stanno aumentando, bisogna migliorare le condizioni di lavoro. C'è diventato amico della Camusso. I salari sono sostenuti dal governo e gli sindacati sono sostenuti dal governo, e trovo che sia una cosa molto giusta. È diventato amico della Camusso, Forchielli? Ma la situazione in Cina è ribaltata. Se uno deve vedere il contesto storico, il sindacato aveva un senso in Italia negli anni 50. Adesso nel 2015 fanno ridere, solo che è dagli anni 50 che dico le stesse cose. È 2015, ma anche nel 2013 fanno ridere. Però in Cina ben vengano, capito? Perché ragazzi, i padroni cinesi, capito, non li augura nessuno. Io spero infatti di non averlo mai. Comunque, grazie, vi ringrazio per essere stati con noi, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, e Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Troviamoci dopo per la lettura dei giornali. Oggi vanno un po' meglio di ieri, dopo il giornale delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7 e 19 minuti, cari ascoltatori. Vi ricordo che avremo gli ospiti alle 8:15. Come primo ospite il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che è anche un dirigente del Partito Democratico. Poi parleremo dalle 8:30 alle 9, insomma, di queste promesse elettorali, l'ultima di Berlusconi a restituire l'IMU, ma poi anche il condono tombale. Se credete a queste cose, se credete, se pensate che siano delle promesse che si fanno in campagna elettorale e poi i politici non riescono a mantenere. Ne parleremo anche con un fondatore di un'iniziativa che si chiama bachecapolitica.it, un sito internet dove vengono raccolte proprio tutte le promesse elettorali per capire poi se vengono mantenute. E anche il sondaggista Alessandro Amadori sarà con noi. Tutto questo più avanti, ora andiamo a sfogliare i quotidiani in edicola. È martedì 5 febbraio, intanto i titoli: borsa e BTP sotto tiro dei mercati, così apre il Sole 24 Ore sulla giornata difficile anche sul fronte dello spread che sale a 286, e questo anche per altri giornali. L'apertura, La Stampa: banche, rischio voto, borsa KO, Il Messaggero: spread e borse, timori sull'Italia, L'Unità: Berlusconi parla, la borsa cade, Avvenire: mercati, siamo alle solite. Il Corriere della Sera invece apre su Montepaschi: un'email segnalò i rischi inviata ai vertici durante l'operazione Anton Veneta. Per Repubblica: effetto Berlusconi, crollano i mercati. Libero invece: lotta di tasse, dopo la restituzione dell'IMU il Cavaliere lancia il condono fiscale. Il Giornale: bugie e bugiardi, emette in prima pagina Monti, Fini e Bersani. Il Fatto Quotidiano invece apre con un'intervista a Vendola e un'accusa molto forte: insultato perché gay a Roma, ho paura di uscire la sera. Queste le parole di Nichi Vendola in un'intervista messa in prima pagina. Io voglio partire però ritornando con il solito appello: mani sul volante o sulla tazzina del caffè bollente, che se no la fate cadere. Qualcuno mi ha scritto: ma se uno si sta facendo la barba, la metta ben salda, mano ferma. Allora, domenica Repubblica ha scritto che il Senato, poco prima di concludere la legislatura, ha stipulato una convenzione con uno studio medico. Questo studio medico, la titolare di questo studio medico è la moglie dell'onorevole Mario Pepe, anche lui medico. Oggi l'onorevole Mario Pepe fa un'intervista sfogo su Il Fatto Quotidiano. Pepe: non è Schifani che ha favorito mia moglie. Così la trovate a pagina 7. Fabrizio D'Esposito si sfoga. Mario Pepe vuole sapere quanto ha guadagnato il centro di mia moglie nel mese di gennaio. Nemmeno 100 euro. Mi hanno tirato in mezzo per una storia in cui non c'entro nulla. Peraltro, la società della moglie, tra l'altro nomen omen, lo studio è intitolato alla moglie Ornella Malato, e questo, la dottoressa Malato ha uno studio medico, vabbè, ma insomma capita. La Medical Service 88 SRL, con la quale è stata stipulata la convenzione con il Senato. Allora Pepe cade sul conflitto di interessi in famiglia: ma che han fatto un polverone in un bicchiere d'acqua, è fango, solo fango. Intanto io e mia moglie non viviamo più insieme da 2 anni. Non è un appalto, i senatori hanno un'assicurazione, possono scegliere di andare dove vogliono. Semplicemente mia moglie ha fatto un'offerta con il 30% di sconto, e il Senato ha deciso di fare questo tipo di convenzione. Dalla Camera a quel punto è partito il complotto contro di me: quando hanno visto lo sconto del 30% hanno fatto la soffiata. Lo studio di mia moglie è affermato, è su Piazza da 35 anni, ha i migliori specialisti, già alcuni senatori come clienti. e all'accusa, insomma, ma lei ha parlato con Schifani per fare, per raccomandare sua moglie, ma quando mai? Non gli ho chiesto nulla, non parlo da Schifani con Schifani da 5 anni, non stiamo in buoni rapporti. Al Senato sono rimasti colpiti da quel 30% di sconto, questa è la verità. E insomma, si sfoga, poi dice: sa quanto ha guadagnato lo studio di mia moglie in un mese? 100 euro. Uno è andato a farsi l'emocromo, un altro ha speso 55 euro di analisi da parte del Senato. Questo è tutto, non merito questo fango. Che cazzo c'entro io? Insomma, un pepe che si difende così. Comunque, questa convenzione dello studio intitolato alla moglie, anche se lui dice non siamo più, non vivo più insieme a mia moglie da 2 anni, è finito nell'occhio del ciclone. Se avete ancora le mani sul volante, il secolo XIX continua la battaglia per una maggiore trasparenza nelle spese dei consiglieri regionali in Liguria, tanto che in prima pagina oggi, tipo consiglieri wanted, il secolo mette: questi signori non vogliono dire come vengono spesi i vostri soldi, e ci sono le fotine, proprio le fotine, molti sorridenti perché sono delle foto prese ovviamente, immagino, nel momento istituzionale. Melgrati del PDL, Limoncini dell'UDC, Siri della lista Biasotti, Chiesa del gruppo misto, Piredda Italia dei Valori, Rixi della Lega Nord, Benzi, Capurro, Rossi, Miceli, Fusco. Queste sono le foto delle persone proprio additate, un po' tipo wanted, stile western. Questi non vogliono dire come spendono i vostri soldi. Tra l'altro ci sono nuovi avvisi di garanzia, secondo il secolo XIX in arrivo, per chi ha ammesso irregolarità. Si è scoperto chi avrebbe speso 2 euro per le mutandine. Ah, questa è la notizia che attendevo da giorni. Marco Grasso e Matteo Indice raccontano all'interno del secolo XIX, pagina 16, le confessioni inguaiano i politici del Popolo della Libertà. Spese folli. È vero che molti si sono rifiutati di rispondere agli interrogatori, ma sono state acquisite quelle ammissioni che sono state fatte durante le interviste. Per esempio, chi ha raccontato, come Alessio Saso, proprio al secolo XIX, di essere andato alle terme di Vinadio per un colloquio con alcune persone, e ci sono 5 ingressi per la piscina. Ma eccole lì, le mutandine restano irraggiungibili, scrive il secolo. Le mutandine da 2 euro della dipietrista Marusca Piredda, comprate a spese dello Stato, dunque vengono attribuite a lei, dell'Italia dei Valori, 2 euro di mutandine rimborsate. Chissà se è vero oppure no. Intanto il nuovo caso è questo: tutto nella norma, sempre sul secolo, è tutto secondo la legge, ma lavorano al partito, lo stipendio lo paga la regione, dipendenti del gruppo distaccati al Popolo della Libertà. E racconta poi il secolo: la legge dice che i soldi sono pubblici, allora arrivo nelle casse della regione fino al loro sbarco nel forziere del consiglio, poi però nel momento in cui passano sotto la responsabilità dei gruppi diventano privati. È vero, è così. La storia recente della politica ha insegnato che l'opinione pubblica, cioè gli italiani, non è sensibile solo ai reati penali. Ben più pesanti sono considerati i reati morali o l'inopportunità. Per esempio, il tasso di scandalo si alza quando la legge consente alcune azzardate manovre o quando qualche consigliere regionale esagera nell'esercizio delle sue funzioni. Volete un esempio? Franco Rocca, ex sindaco di Zoagli, consigliere di lista Biasotti del PDL, secondo molti ha rischiato di confondere il suo gruppo in un ufficio di collocamento. Infatti, molto probabilmente seguendo il dettato della legge, ha visto entrambi i suoi figli assunti nel gruppo Biasotti. Il più grande, Marco Rocca, già consigliere comunale a Zoagli, ha lavorato per 4 mesi a 1.100 euro lordi mensili. Il secondogenito, Paolo Rocca, ha lavorato per 1 mese e mezzo nello stesso anno per 3.200 euro lordi. Ripeto, dice il secolo, tutto forse secondo il dettato della legge, ma certo anche questo, in questo periodo, gli italiani non lo sopportano più: consulenti e familiari negli uffici pubblici. Eccoci qua, mani che si rilassano, potete farvi pure la barba, ci risentiamo tra 5 minuti. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:34 minuti, ieri è stata una giornata di borsa davvero difficile, così si concentrano un po' tutti i giornali su queste aperture, e è ritornato a risalire lo spread, questo incubo dello spread, questa spada di Damocle. Tutti gli italiani sanno cos'è lo spread ormai. O più o meno tutti, borsa e BTP sotto tiro dei mercati, così apre il Sole 24 Ore, a pagina 2-3 c'è un'analisi della giornata finanziaria davvero difficile, anche un'analisi di quello che è stata la giornata in Spagna con Maximilian Cellino, a pagina 3 risale il rischio Italia, vola lo spread, il fattore rischio politico, scrive Cellino, torna a giocare un ruolo da protagonista sui mercati finanziari, un'irruzione in piena regola, soprattutto sui listini obbligazionari come non si vedeva dai primi giorni di dicembre. Non c'è solo l'entrata nel vivo della campagna elettorale italiana a inquietare gli investitori, ma anche uno scandalo di fondi neri del Partito Popolare in Spagna che minaccia il futuro del governo guidato da Mariano Rajoy. Quindi anche la situazione con il tasso dei bonus che è schizzato a 5,43% proprio per questo scandalo di fondi neri del Partito Popolare Iberico, e quindi anche in Spagna la situazione è difficile. Le banche a picco in Europa, Milano perde il 4,5% e c'è il crollo. Repubblica con Ettore Livini lega subito questo alle dichiarazioni di Berlusconi. A pagina 3, Roma tornerà una minaccia per l'Europa, nei governi e nella finanza scatta l'allarme, questo è il titolo dell'articolo col report della JP Morgan, un incubo, il successo del Cavaliere, quindi Repubblica ovviamente schierata diciamo anti Berlusconi la vede così, i guai di Piazza Affari, il balzo dello spread, colpa dello scandalo Montepaschi e delle promesse del Cavaliere. Promesse, a proposito di promesse elettorali, beh, tiene banco ancora sia la promessa di restituzione dell'IMU che ieri ha portato il premier Mario Monti a dire un simpatico provvedimento che ha anche dei profili di usura, quindi insomma con la classica calma, però ha fatto delle accuse pesantissime. E poi c'è stato anche la promessa del condono tombale, abbiamo sentito anche Berlusconi dire ieri alla 7 farei il condono tombale se avessi la maggioranza. Insomma, oggi Sole 24 Ore fa un po' di conti, doppio colpo alle casse di Stato e Comuni, ci sarebbero 8,6 miliardi in meno. Questo è il risultato della restituzione dell'imposta 2012 sulla prima casa e del mancato gettito per il 2013. Scrive Saverio Fossati a pagina 5, restituire l'IMU è facilissimo, basta trovare 8,6 miliardi, solo l'impatto sul 2013. Il rimborso dell'imposta che è riuscita a togliere all'ICI il posto di meno amata nel cuore degli italiani non è però tecnicamente parlando impossibile, anche se il percorso si presenta irto di ostacoli. Mentre c'è anche lo studio dell'accordo con Berna per invece la tassazione dei capitali all'estero con i possibili incassi che si profilano. C'è Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera urticante sul tema del condono. Le sanatorie premiano i furbi, scrive nell'articolo Gian Antonio Stella. Ieri mattina il Cavaliere è tornato a perorare un altro condono tombale per correggersi al pomeriggio, tutto un equivoco. A questo punto comunque il dubbio rimane, non aveva giurato che la stagione dei condoni era finita? Mentre su questo tema già concesso dopo ripetute fiere smentite, mai pensato a nulla del genere, non una ma due sanatorie. Il Corriere ricorda più avanti la questione dei condoni con Gian Antonio Stella e quanto hanno portato. La rivista delle agenzie delle entrate, Fisco Oggi, dal primo condono del 73 a quest'anno ricorda che in base ai dati forniti dall'Istat in 40 anni tutti i condoni messi insieme, cioè una sfilza, hanno permesso di recuperare il tutto in moneta attuale 123 miliardi e 68 milioni di euro, un incasso che condono per condono è quasi sempre stato più basso di quanto i governi si aspettassero. Lo accertò tempo fa la stessa organizzazione mestrina della CGA, guidata da Giuseppe Bortolussi, condono valutario del 76,4% degli incassi preventivati, concordato fiscale del 94, 12,4%, sulle scritture contabili del 95, 2,7%, disfatte neppure paragonabili, però alle sanatorie dell'89, per ogni 100 lire preventivate ne incassarono 6,5 dal condono sugli immobili. poco più di 3 da quello sulla tassa dei rifiuti, meno di 2 dalla fiscale forfettaria. Insomma, si dice il condono porterà 100, ma in genere una media di 4 poi è quello che si riesce a portare a casa. Questo Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, il vizio delle sanatorie, in 40 anni recuperato un solo anno di evasione, e ricorda anche le promesse di Berlusconi che nel 2008 disse mai più. Insomma, in realtà queste promesse elettorali portano consensi o no? Certo, la campagna elettorale è che cos'è? I programmi, ma anche le promesse. I programmi cosa sono? Faremo questo nei prossimi 5 anni se tu, caro cittadino, mi dai il voto. Quindi sono promesse elettorali legittime, però la questione è, e ce lo chiederemo alle 8.30, gli italiani credono a queste promesse elettorali? Quanto credono a queste promesse elettorali? Secondo alcuni sondaggi, il PDL starebbe ora a meno 4% rispetto al centro-sinistra, questo almeno cita Libero a pagina 5, ma anche qui vai a capire i sondaggi quanto siano precisi. Certo, il Corriere della Sera racconta con Maria Teresa Meli che in un retroscena politico a pagina 5 che in realtà lo spettro del pareggio al Senato sta un po' preoccupando Bersani. Vogliono azzopparci, questo è il titolo del retroscena. È come stare su un'altalena. In questo periodo le giornate di Bersani sono un susseguirsi di alti e bassi: da una parte il timore del pareggio al Senato, dall'altra la sicurezza che ci sia una sola ipotesi di governo possibile, il governo del centro-sinistra. Ma certo, dice e scrive Maria Teresa Meli, c'è questa idea che un pareggio possa essere possibile. E quindi la sensazione di Bersani è questa: sia Monti che Berlusconi sanno che non possono vincere, il loro obiettivo solo è avere un potere di interdizione, lo stesso traguardo che nel suo piccolo si prefigge Antonio Ingroia, la stessa meta a cui aspira Grillo. Vogliono tutti ottenere vantaggi di risulta perché tanto sanno che non potranno mai avere la maggioranza, ma il risultato di tutta questa attività è quella di provocare un clima di destabilizzazione che non fa certo bene al paese. In realtà ieri anche Berlusconi ha invitato alla sorta di desistenza Oscar Giannino, dicendo ritiri la sua lista Fare per fermare il declino, perché sono voti sottratti in qualche modo a quello che è identificato come un centrodestra, con diciamo invito respinto subito al mittente. Ma succede sempre, insomma, quando si pensa che le grandi coalizioni non avranno i numeri per governare e pensano che invece le coalizioni più piccole, i partitini più piccoli sottraggano voti alla loro forza politica. Delusione che però c'è anche dalle parti, sempre siamo nell'ambito dei retroscena della politica, sono dalle parti anche di Mario Monti. Questo racconta Repubblica in un retroscena firma Alberto D'Argenio a pagina 7. La delusione del professore è questa: aiuto Pierluigi, ma lui non ricambia. Nelle ultime 24 ore, scrive D'Argenio, 24 ore di aperture a Bersani, ne abbiamo fatte diverse. Ora è lui che dovrebbe fare qualche sforzo per venirci incontro e per ricucire con noi. Questa è la delusione dello staff elettorale di Mario Monti, in attesa di volare a Bruxelles, dove dopodomani affronterà un summit europeo decisivo per la sua campagna elettorale. Continua a battere le regioni italiane a caccia di voti, oggi sarà nel nord-est, ma il tema appunto è questo, una sorta di rapporto con Bersani che si sta raffreddando in quello che a detta di tutti potrebbe essere la futura unione elettorale dopo il voto. In realtà per l'unità, e siamo sempre nell'ambito del retroscena della politica, ci dobbiamo accontentare di questo, insomma, di strategie che vengono raccontate dai giornali, si parla di problemi all'interno anche della lista Monti, nel senso che nella lista Monti, scrive l'unità a pagina 7, si parla già di separazioni. Scrive Andrea Carugati: il tema è questo, non ci sarà alcun comizio comune per Monti, Fini e Casini, vale a dire alleati. E già si parla di separazione, infatti non sono previsti comizi comuni. Curioso per una squadra che, come ha ribadito più volte il leader dell'UDC Casini, dovrebbe essere destinata non solo a far gruppi unici in Parlamento, ma a costruire un vero e proprio partito. E così si sprecano le ipotesi sul futuro a seconda dell'esito delle urne. Casini punta ad avere almeno 10 senatori per poter fare un gruppo autonomo a Palazzo Madama e trattare con Bersani senza il condizionamento del premier. Insomma, scrive l'Unità, già in realtà si parla all'interno della lista Monti di possibili divisioni. Comunque la politica è tutta qui. Ecco, in queste strategie che trovate spiegate sui giornali. Montepaschi invece ieri è stato il giorno dell'interrogatorio di Mussara, è durato un quarto d'ora. Mussara in realtà si è avvalso della facoltà di non rispondere, però c'è un piccolo giallo. Secondo alcune versioni dei giornali avrebbe semplicemente rinviato per mancanza di un avvocato l'interrogatorio, forse a sabato, ma avrebbe l'intenzione di collaborare. Le notizie interessanti sono queste. Sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini scrive, ed è anche l'apertura di prima pagina, che già nel 2007 un'email segnalò i rischi, un'email partita dal vicepresidente di Montepaschi, per la verità vice direttore generale Giuseppe Menzi, che ha inviato una mail ai vertici, in particolare al direttore generale Vigni, nella quale illustrava la criticità dell'operazione Antonveneta. Criticità con una mail che però è stata ignorata, scrive il Corriere. Antonveneta, scriveva il manager, è divisionalizzata male, la governance è concentrata su Amsterdam, bisogna riconsiderare gli accantonamenti del 2007, i crediti danno una crescita zero. Non è finito. In questa mail Menzi entra nel dettaglio della situazione della banca, evidenzia come la criticità devono essere curate con terapia d'urto anche per non incidere troppo sul 2008, sottolineando la necessità di inserire figure di Montepaschi che possano poi fornire garanzie. Insomma, tutto questo è stato lanciato, ma in realtà è stata ignorata questa mail. Ma la testimonianza più interessante, mi ha incuriosito di più, riguarda Montepaschi, è quella di Antonio Rizzo. Antonio Rizzo è diventato il super testimone, ex manager della Dresdner Bank, è colui che ha detto si parlava dei vertici dell'ora di Montepaschi come della banda del 5%, dove quel 5% starebbe per le mazzette, le stecche. E oggi Antonio Rizzo fa un intervento, ieri è andato in procura a parlare, e oggi fa un intervento scritto sul giornale e tira in ballo la presidente della RAI Anna Maria Tarantola. Un po' di mistero, dopo il traffico lo svegliamo. Io, super teste, vi svelo i segreti del Monte di Antonio Rizzo, ex manager della Dresdner Bank, come detto il testimone del 5%. Intanto, a parte Rizzo, scrive al giornale, la lettera la trovate a pagina 9, intanto scrive in questo schema, cioè manicheo, buoni contro cattivi, derivati contro mutui, io sarei il buono che ha denunciato il malaffare nel 2008. In realtà la mia deposizione in procura non è stata spontanea ma avvenuta su convocazione, le assicuro, caro direttore, che ne avrei fatto volentieri a meno, poiché la banca e il sistema per il quale lavoravo ha tentato in tutti i modi di farmela pagare. Non sono un eroe, non sono un martire. Grazie ai lauti stipendi e soprattutto ai bonus che ricevevo per vendere prodotti finanziari mi sono potuto permettere la consulenza di due ottimi avvocati. Lavoravo come dipendente di una banca inglese prima e Dresdner Bank poi in tutta Italia e vendevo a banche e enti locali, tentando di rispettare leggi e regolamenti, mettendo in guardia i clienti dai rischi a cui andavano incontro i derivati e prodotti strutturati. Ci sono sempre riuscito? Non lo so. E detto questo, venendo al Montepaschi, non è una questione di interpretazione, per capirlo non occorre, come dice Bersani, una commissione d'inchiesta sui derivati, ma è un chiaro falso in bilancio, malversazione, probabilmente appropriazione indebita ai danni degli azionisti grandi e piccoli. E però ecco il punto centrale della lettera, tutti parlano di me come super testimone, ma il vero super testimone di questa vicenda non dovrei essere io, ma la dottoressa Tarantola, che ha ricevuto la relazione degli ispettori di Banca Italia nel novembre 2010, nella quale tutto era scritto e descritto in dettaglio. Mentre le telecamere della RAI inseguono il sottoscritto in tutta Italia per ottenere una dichiarazione irrilevante, nessuno sale un piano di scale per chiedere al proprio presidente perché abbia ignorato quella relazione, consentendo l'errata contabilizzazione delle operazioni in questione. Ecco dunque che, svelato il mistero, il perché Antonio Rizzo chiama in causa Anna Maria Tarantola, attuale presidente della RAI, ma ex dirigente appunto a Banca Italia, perché dice è proprio lei che ricevette quel rapporto nel 2010 in cui, scrive Antonio Rizzo, era già tutto chiaro. quello che invece pretendono che, inseguendomi anche i giornalisti, che racconti io ora. Io Supertest vi svelo i segreti del Monte, lo trovate sul Giornale. A proposito di Monte Paschi, c'è anche un retroscena di Libero secondo il quale Mussari avrebbe cancellato, scrive Roberta Catania a pagina 11, ma l'articolo inizia in prima pagina, avrebbe cancellato tutte le mail e, dal computer relative al 2007. Questa indiscrezione c'è su Libero. Storie di sindacati, storie di rapporti, di relazioni industriali, due storie agli antipodi anche da una parte e dall'altra del mondo, cominciando dall'Italia, dove vari giornali si concentrano sulla storia di 19 sindacalisti operai della FIOM di Pomigliano che sono stati reintegrati per sentenza del giudice. Ma cosa è successo? Sono andati alla fabbrica, ma gli hanno detto: noi vi paghiamo perché la legge è questa, ma qui in fabbrica non entrate, dovete rimanere a casa. Fiat stipendio ma niente lavoro, schiaffo ai 19 operai della FIOM, così titola il Repubblica, che li intervista anche, e l'apertura anche del Manifesto. In prima pagina: il lavoro è un lusso, dietro lo show di Marchionne la realtà dei 19 operai reintegrati di Pomigliano, confinati e pagati per non lavorare, con l'attacco di Landini. Anche l'Unità al pugno di Marchionne: vi pago ma restate a casa. Sindacati invece in Cina, questa è una buona notizia, ne abbiamo parlato anche alle 6.30, tutti i giornali si concentrano sul fatto che, e così c'è una pagina sul Corriere, una sul Giornale, una sul Messaggero: i sindacati liberi sbarcano in Cina, è una svolta nelle fabbriche della Apple, titola per esempio Guido Santevecchi a pagina 12 del Corriere della Sera. Nella Cina, dove anche un innocente voto via SMS per scegliere il vincitore di uno show televisivo è stato bloccato dal regime, oltre 1 milione di operai potranno scegliere liberamente i loro delegati sindacali. Accadrà alla Foxconn, che è il grande gruppo dell'elettronica taiwanese che dalle sue fabbriche in Cina fornisce di gadget quasi tutti i mercati internazionali, dalla Sony a Hewlett Packard, Nintendo, Dell, Apple. Senza le sue catene di montaggio i milioni di iPhone e iPad che avete magari in questo momento in mano non arriverebbero sparsi negli Apple Store in tutto il mondo. Ebbene, lì nella Foxconn, dove ci sono state varie inchieste per i turni di lavoro massacranti, condizioni degli operai praticamente accasermati, stressantissime, tanto che nel 2009-2010 molti ragazzi si sono tolti la vita, per la prima volta ci sarà la possibilità di votare i rappresentanti sindacali. Anche sul Giornale: primo voto per gli operai cinesi, potranno eleggere il sindacato. Finora i rappresentanti venivano scelti dall'alto, dal partito. Dopo mesi di proteste e lo scandalo dei suicidi, il colosso Foxconn cede alle pressioni di Apple. E anche per il Messaggero: Cina, il sindacato entra in fabbrica. Voglio chiudere con la notizia sulla questione dell'unione omosessuali, perché c'è viene proposta la notizia in due modi diversi, per la verità. Il matrimonio è solo quello tra uomo e donna, è quello che ha riproposto, come scrive Avvenire a pagina 4, Vincenzo Paglia, il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ma in realtà ha fatto, secondo il Corriere, secondo gli altri giornali, un'apertura: Monsignor Paglia e le coppie gay, la politica individui le soluzioni. Questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera, oppure insomma viene posta come una sorta di apertura anche su Repubblica, una pagina su questo. Bisogna tutelare diritti privati e patrimoniali, ma il matrimonio, ha ribadito, non è per tutti. Questo mi spinge ad arrivare alla prima pagina del Fatto Quotidiano, dove trovate un'intervista a Nichi Vendola, leader di SEL, che all'interno, poi a pagina 8, a Paola Zanca, dice: io gay a Roma non posso uscire da solo la sera. Dopo gli insulti, l'attacco è anche al sindaco Alemanno, ha sdoganato i piccoli gruppi dediti all'igiene del mondo. Non puoi non pensarci quando ti viene voglia di prendere un gelato a Campo dei Fiori. Se sono solo, io preferisco stare a casa. Così Nichi Vendola accusa in prima pagina del Fatto. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 16 in punto. In questo istante vogliamo parlare un po' di attualità politica, lo facciamo con un sindaco del Partito Democratico che è anche un dirigente nazionale. Si tratta del sindaco di Bari, Michele Emiliano. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, bene, bene, ha fatto i calcoli dell'IMU che verrà restituita a Bari? È una buona... Beh, sarebbe un colpaccio, anche se riuscissimo a restituire un po' tutte le bollette con i sovrapprezzi energetici degli anni passati. Insomma, le ingiustizie in questo paese ne sono state fatte tante. C'è chi ha pagato l'energia elettrica, c'è chi ha pagato il bollo. Insomma, io 2 anni fa, quando ci fu la campagna elettorale, avevo di fronte un mio avversario che aveva promesso un certo numero di posti barca, diciamo così, con una tecnica approssimativa per poi avere posti di lavoro. I posti barca, perché a Bari, giustamente. Guardi, se lei ne promette 1000, io a questo punto ne prometto 2000 e così vinco le elezioni. Insomma, lei se la mettiamo su questo piano, diventa un altro gioco. Le sembra una promessa? Le sembra una promessa. Cioè, quanto ci crede a questa promessa di Berlusconi? Ma guardi, è semplicemente un po' come le levette del mix per quando si fa suonare per i matrimoni alla chitarra, si possono muovere tante leve col fisco, il punto è stabilire qual è il punto di equilibrio, cioè è chiaro che sono molto contenti e hanno tante speranze coloro che hanno una casa, e coloro che non ce l'hanno e che però vivono comunque nelle nostre città, coloro che hanno altro genere di problemi, i meccanismi ovviamente mostruosi di questo rimborso gigantesco di natura titanica, diciamo, ecco, probabilmente non vengono considerati. In questo momento c'è un unico obiettivo, che è vincere le elezioni, sì. Ma nessuno ricorda che le elezioni sono solo un mezzo, il fine di questo gioco è governare città, il paese intero, sì. E proporsi con un progetto per il futuro, insomma non è un progetto per il futuro, io adesso vi rimborso l'IMU. Però in campagna elettorale non crede che i politici debbano un po' fare anche delle promesse a dire, e se ci date il voto in 5 anni faremo questo, questo è un po' il succo della campagna elettorale. Sì, ma questo non è un progetto quello di restituire l'IMU, è un, come posso dire, peraltro la cosa ancora più singolare è che mentre noi sindaci gridavamo contro tutti, devo essere sincero, sì. Anche io mi ero arrabbiato molto anche con il mio partito, anche Berlusconi questa IMU l'ha votata, quindi gli chiederei ma come ragioni e come pensi al futuro di questo paese? Ma mesi fa fai una cosa, poi adesso siccome sei in campagna elettorale ne pensi un'altra. Ma lei ci vede dietro, per esempio Monti ha parlato di compravendita di voti, lei si spingerebbe a tanto? Beh, onestamente non mi sembra un po' esagerato, però io nei confronti di Berlusconi non ho mai avuto, diciamo, quell'antipatia tipica della sinistra, l'ho sempre considerato un vecchio zio pasticcione. Un vecchio sono zio? Stato anche molto... Perché un vecchio zio pasticcione? In che perché senso? Perché un vecchio zio pasticcione, diciamo la verità. Lui è bravo a fare tante cose, è bravo col calcio, è bravo, dicono, con le donne, bravo con tante altre cose, ma una sola cosa assolutamente non sa fare, e su quella si intestardisce, non è capace a fare il Presidente del Consiglio, lui vuole a tutti i costi dimostrare a tutti di essere capace di fare l'unica cosa che assolutamente e chiaramente non sa fare. Non sa fare. Senta, invece questa del condono tombale, perché anche qui siamo il paese dei condoni, questo dal 76 a oggi, pare che oggi la CGA di Mestre ha fatto i calcoli, sono stati recuperati 168 miliardi, ben al di sotto di quelli promessi dai condoni. Però come la vede l'idea del condono? È un'idea pericolosa, perché sostanzialmente dà ragione a tutti quei nostri amici, parenti, tutte quelle persone che conosciamo, perché gli evasori non sono delle bestie, diciamo, sono semplicemente delle persone come noi che a un certo punto fanno dei calcoli di vantaggio. Se gli si dà l'impressione che tanto è meglio evadere e poi fare un condono è difficile. Ma sono dei furbi o c'è anche un'evasione di necessità, secondo lei, sindaco? L'evasore totale di solito è un furbo, cioè uno che nasconde la sua attività e tenta di farla franca. Il dramma è un altro, è coloro i cui tributi sono accertati, per esempio da Equitalia, e vengono massacrati nel tentativo di esigere queste tasse, che sono due cose diverse. Allora, rispetto a queste cose, io credo, per esempio, io ho portato portato fuori il mio comune dal rapporto con Equitalia per questa ragione. Non è possibile esigere delle tasse già accertate con un meccanismo animalesco, insomma. Senta, sindaco Emiliano, lei, come ha detto, è stato anche critico nei confronti di Bersani e del suo partito in passato. Secondo lei Bersani sta facendo la campagna elettorale giusta a non replicare, per esempio? Ieri ha detto: io non prometterò certo di rimborsare i viaggi di nozze, visto il livello a cui siamo. Sta facendo la campagna giusta o sta un po' dormendo Bersani sugli allori? Fatto così. È una persona seria alla quale è difficile estorcere una parola solo perché ci sono le elezioni. Sarà difficile forse per qualcuno capire che c'è una persona che in questo momento ha un solo timore, perché sa che vincerà le elezioni, di dire una cosa che poi non riesce a mantenere. Quindi per Bersani questo è un incubo. Bersani è un po' l'opposto di Berlusconi. Però così Berlusconi pare stia rimontando nei sondaggi, adesso non so se siano veri o no. Questo è possibile, però io continuo a pensare che gli italiani non sono degli sciocchi, e si stanno rendendo conto anche che questo vecchio zio pasticcione ha ormai una sua età. Bersani è il fratello grande, serio, che spesso ci richiama a fare delle cose dure, complicate, ma che quando per esempio succede qualche pasticcio grosso in famiglia arriva, c'è e risponde al telefono. È la sicurezza. Secondo me sì, questo è il motivo per il quale Bersani vince. Però perché lei dice gli italiani non sono sciocchi? Un po' rievoca il Berlusconi: non votate di lì, non saranno mica tutti coglioni. Mi è scappato, cioè... l'altro giorno, l'ho detto anch'io, ho detto, ero, devo dire, non in maniera... Cioè chi ha detto? Ero a Foggia e mi è scappato di dirlo. Cioè cosa ha detto? Forse mi sono pentito, però penso che in questo momento nessuno andrebbe dietro al vecchio zio pasticcione. Ma chi ha detto a Foggia? Non ho capito. Mi è scappato di dire e lo dica anche a noi. Noi non sarebbe da sciocchi insistere con una persona, ripeto, simpatica, brava a far tutto fuorché a fare il presidente del Consiglio. Ma ha usato questa parola, sciocchi? Lasciamo stare, l'ho detta lì e ho sbagliato a dirlo. No, questa me la sono persa. Senta, lei pensa che la questione Monte Paschi possa far pagare qualcosa in punti elettorali al Partito Democratico? Io che non sono un esperto di questa materia, già da 2 o 3 anni so che il Monte dei Paschi di Siena è in gravissima difficoltà. Cioè lei, che proprio non è esperto di banche, sta a Bari? Sappiamo tutti, insomma, lo sanno. E chi ha nascosto allora? E chi bancario lo sapevano da tempo che c'era un problema a Monte dei Paschi di Siena. E come mai? Chi è che ha nascosto? Poi non so perché è venuto fuori adesso, ma è strano questo fatto. E sti magistrati, eh? Beh sì, sono personaggi un po' particolari, dalle volte si mettono in testa di mettersi a fare politica, fare i sindaci, anche a Bari, mi pare. Michele Emiliano tra l'altro è un magistrato, come se è magistrato antimafia. Cioè lei sta dicendo che hanno tirato fuori adesso in campagna elettorale questa vicenda? Non credo che l'abbiano tirata fuori i magistrati, tutti sanno che i magistrati ovviamente quando ci sono situazioni del genere lavorano per capire cos'è accaduto. Credo che i magistrati stiano lavorando da anni su questa storia del Monte dei Paschi di Siena, molte sono le procure che si sono interessati di questi eventi, ovviamente, siccome è giusto che in campagna elettorale alcuni fatti vengano tirati fuori. E chi è stata? La stampa? Una certa stampa? La stampa fa il suo dovere. E allora chi è stato? Qualche volta è duro accettarlo, ma bisogna farlo, accettarlo. Senta, vede nell'agenda del Partito Democratico qualcosa di positivo per il Sud? Perché è un po' quello che lei ha reclamato da tempo. Io sì, soprattutto una cosa. Io vorrei tornare, e Bersani è convinto di questo, al meccanismo del cosiddetto credito d'imposta. Cioè se qualcuno investe nelle zone sottoutilizzate del paese, è giusto che questo investimento abbia un sostegno di natura fiscale. Certo, bisogna negoziarlo con l'Unione Europea, non è un'operazione sempre semplicissima perché si rischia di cadere nei cosiddetti aiuti di Stato, però ecco, stimolare gli investimenti, il reinvestimento degli utili, l'investimento anche nella risorsa umana, nelle assunzioni di personale, nelle zone più difficili con un meccanismo di credito d'imposta, secondo me è più opportuno perché premia chi è bravo, chi consegue utili e chi paga le tasse. Ma ovviamente lei appoggia anche Vendola perché fa parte della coalizione. Sì. Vendola è il nostro presidente della Puglia, è la persona che ha fatto la rivoluzione pugliese assieme a tanti altri, ma è il simbolo. Ha visto che però siamo molto orgogliosi L'ex assessore tedesco è stato rinviato a giudizio, questo creerà problemi in Puglia? Non credo, perché è una cosa metabolizzata da molti anni. Metabolizzata. Certo, adesso probabilmente ci tireranno dietro gli zoccoli, come si dice da queste parti. non durante la campagna elettorale, però per questa è roba vecchia ormai. Beh, è roba vecchia, però è stato rinviato a giudizio adesso. Sappiamo, si è dimesso credo 4 anni fa o 3 anni e mezzo fa. Ora, quante volte se le possono giocare queste cose dal punto di vista politico? Senta, un giornale svizzero ha scritto Bari, città di mafia, poi peraltro ha chiesto scusa. Ryanair di recente, c'era il caso della hostess, siamo in viaggio per Bari, città mafiosa. Lei, sindaco di Bari, come se le vive? Qualche anno fa effettivamente la situazione si era messa male. Poi, Beh, però l'ha detta adesso, non qualche anno fa. Sì, è chiaro che poi dopo c'è sempre un po' di... vuole un po' di tempo per scrollarsi di dosso le immagini negative. Le posso solo dire che il giornale svizzero scriveva dopo una partita di calcio fatta dal Bari con una squadra di Serie A, Sion, quella di Gattuso, non è stata giocata allo stadio, è stata giocata in un quartiere di periferia che però aveva un impianto perfettamente in grado di far svolgere una partita a due squadre di Serie A. Voglio solo dire questo agli svizzeri, devo anche dire che con la Svizzera abbiamo dei rapporti splendidi, noi siamo il principale partner commerciale della Svizzera e quindi le scuse sono arrivate molto velocemente per ragioni economiche e da Ryanair per ragioni di pietà nei nostri confronti. Ryanair invece non... Ryanair, devo dire, ho avuto una lettera molto, molto carina, molto gentile dall'amministratore delegato, il quale però sostiene di non avere trovato prove di questa hostess che ha fatto questa battuta, che peraltro avrebbe parlato in inglese secondo i presenti. Io comunque ho scritto alla compagnia, la compagnia si è comportata in modo molto corretto, anche la Ryanair ha interessi molto grossi, quindi episodio finito. Sono certo, gli ritiri tutto, se no ti ritiri tutte le concessioni, se no ci arrabbiamo, no? Vabbè, senta, battuta conclusiva, la vicenda delle cozze pelose, ne ha più mangiate di cozze pelose? Qui aveva detto che non avrebbe più mangiate le cozze pelose. Mi pare non può non mangiare le cozze, sarebbe un po' come se il sindaco di Cremona dovesse smettere di mangiare il torrone. Esatto, però stavolta non le prende più in omaggio, se le compra. Ma in realtà anche io credo sia una bolla di quelle gigantesche, erano miei compagni di partito che... ovviamente imprenditori che hanno regalato il pesce, avendo anche proprietà come ristoranti, alberghi, ma sanno i giornalisti, poi era abbastanza frequente. In ogni caso è chiaro che adesso cerchiamo di stare attenti a tutto, perché ci siamo resi conto che qualunque dettaglio può essere adoperato per fare almeno non ha detto che le ha mangiate a sua insaputa, che già questo in Italia Io ho chiesto anche scusa perché tutto il disdoro che ne è conseguito, per quanto del tutto campato per aria, non ha certo fatto bene né a me né alla città. Intanto la ringrazio, buona giornata al sindaco di Bari, Michele Emiliano, sindaco del Partito Democratico di Bari. Allora, ma voi credete a queste promesse elettorali a 360 gradi? Perché l'ultima è quella di Berlusconi, vi restituiamo l'IMU, ma non so, anche Mario Monti ha detto promettiamo di tagliare le tasse ora. Oppure, se leggete i programmi elettorali, c'è chi promette di tagliare le province. Ecco, questa, scusate, la dico così, un po' sorridendo. Ma promettono di tagliare i parlamentari, di tagliare i costi della politica. Ma voi credete alle promesse in campagna elettorale? Ditecelo, 800 24 00 24. Ne parliamo tra poco anche con chi ha creato un sito, si chiama bachecapolitica.it, per proprio controllare tutto quello che viene promesso dai politici nelle varie interviste e poi andare a verificare se queste promesse vengono mantenute. È vero, la campagna elettorale è fatta anche così, si promettono di fare delle cose per i successivi 5 anni. Voi come reagite? Tra poco. 8:35 minuti. Allora, voi credete alle promesse che i politici fanno in campagna elettorale? Qual è la promessa a cui credete di più? Qual è quella a cui credete meno? Qual è la persona che vi ispira più fiducia? In fondo, un po' la campagna elettorale, che cos'è se non la promessa? I programmi elettorali sono questi. Se mi date il voto, io prometto che farò queste cose in 5 anni. Vogliamo parlare di questo anche con il vostro contributo? 800 24 00 24. Permetteteci di aprire con un sorriso. Lo rimandiamo, il fiorello dell'edicola Fiore che racconta l'ultima promessa di Berlusconi, quella dell'IMU. Leva l'IMU sulla prima casa, poi compra Balotelli e fa 2 gol ieri alla prima. Addirittura restituirà l'IMU, secondo me, altro che Presidente del Consiglio, lo fanno Papa. Se fa quello che ha detto lo fanno papa. E poi santo. Silvio XIII. Silvio XIII. Questa è la versione di Fiorello, ovviamente sull'ultima promessa elettorale. Voglio salutare Alessandro Amadori. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Direttore buongiorno di Quesis Research, un istituto di ricerca. Magari ha anche qualche dato adesso che ci dà per capire quest'ultima promessa, come incide sull'umore anche degli elettori. Voglio salutare anche Marco Govoni, che è il fondatore di bachecapolitica.it. Buongiorno Govoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, se uno va su bachecapolitica.it, tra l'altro il motto è "molti dicono di voler cambiare il tuo mondo, in pochissimi lo fanno", uno digita bachecapolitica.it e trova, che ne so, la promessa, l'ultima proprio di Berlusconi, detta un'ora, un giorno, 8 ore, 32 minuti e 45 secondi fa, ovviamente il counter va avanti, promessa in corso, ma così tutte le promesse, no, dei politici, e vedremo quante di queste vengono mantenute. Allora, intanto Amadori, annunciare restituiremo l'IMU è un qualcosa che sposta all'interno dei sondaggisti, sposta davvero l'umore degli elettori? Beh, c'è un effetto elettorale misurabile, sono già comparsi dei sondaggi che registrano dall'annuncio della promessa a oggi, quindi nel giro di poche ore, un incremento nell'intenzione di voto per il PDL intorno a un punto percentuale e mezzo. Io personalmente sarei prudente e lo stimerei nello 0,7%. Questo significa che tra i 250.000 e i 300.000 voti provenienti dall'area degli incerti e degli indecisi potrebbero effettivamente essere migrati verso il PDL. Uno 0,7%. Beh, quindi uno 0,7%, lei lo identifica intorno allo 0,7%. Ma sì, che cos'è un effetto annuncio? Il fatto che si può desumere che in fondo gli italiani ancora credono, contrariamente a quanti molti dicono, a ciò che i politici possono promettere e poi mantenere? Ecco, anche su questo è uscito uno studio proprio oggi fatto da un istituto collega e amico mio. Allora, il 50% degli italiani, quindi metà della popolazione elettorale di riferimento, non crede più alle promesse. Il rimanente 50% si distribuisce così: il 15% è disposto a fare un nuovo atto di fiducia, mentre il rimanente 35% è possibilista, quindi può sviluppare una sorta di coefficiente di attendibilità legato alle promesse degli uomini politici, e questo coefficiente è intorno allo 0,2. Mm-hmm. Diciamo che c'è un 20% di tasso di fiducia e di propensione ad accettare ancora una volta una promessa. In fondo è un po' come una scommessa. È vero che la probabilità di vincere è bassa, ma tutto sommato perché non provarci? Magari sì. Perché non provarci anche per dire, perché in fondo devo votare, se uno si sente in dover votare, e quindi dice, e quindi è giusto nutrire fiducia in qualcuno, altrimenti, sì, altrimenti che faccio? È così, è esattamente così. Quindi si è molto abbassata la propensione a dare credito agli impegni elettorali, ma non è del tutto scomparsa. Questa è la ragione per cui gli annunci solenni comunque sia un qualche effetto elettorale lo mantengono. E invece, che ne so, il famoso, se ne è parlato in questi giorni, l'acquisto di Balotelli, cioè in questo caso non è una promessa elettorale ma un qualcosa di concreto che va a incidere in un'attività parallela molto molto legata anche agli umori delle persone, il tifo calcistico può davvero incidere? E su questo ci sono delle ricerche che derivano da casi analoghi precedenti. Intanto c'è un effetto oggettivo, diciamo, di tonificazione dell'economia generale, se si tratta per esempio di un'Olimpiade, o dell'economia locale, quindi della squadra che effettua l'investimento. E questo effetto oggettivo di incremento nel volume d'affari va da un minimo dell'1% a livello di PIL o massimo del 10% a livello di fatturato della singola impresa, quindi investire su un campione o su un evento genera un risultato oggettivo misurabile, ma sì, c'è anche un risultato soggettivo. Ancora una volta il numero magico è grosso modo l'1%, anche nel caso di Balotelli la stima che abbiamo fatto come ricercatori che possa aver influenzato circa l'1% degli elettori incerti, quindi sono altri, diciamo, 350.000-400.000 voti che in teoria potrebbero anche spostarsi. Non si tratta di un comportamento assurdo, in psicologia lo studiamo sotto la voce dell'effetto alone. Lei l'ha detto molto bene prima, il fatto che un leader dimostri di saper investire, di avere coraggio, di avere progettualità in un settore collaterale, per quanto non direttamente collegato alla politica, genera quello che in psicologia si chiama effetto alone, cioè una percezione positiva generale che attorno alla figura, attorno alla figura, attorno alla figura, proprio così. Un effetto alone che poi si riverbera attorno alla figura, al ruolo principale che fa in questo caso di politico. Allora, Amadori ci ha dato tanti elementi su cui ragionare. Vorrei andare appunto da Marco Govoni, fondatore con altri colleghi di Bacheca Politica, poi ci dice anche chi siete voi, perché vi siete messi in mente questa cosa. Su Bacheca Politica appunto uno apre e dice, che ne so, Bersani, mio primo atto al governo sarà assicurare la cittadinanza ai figli degli immigrati, e questa è in corso, questa promessa, da 2 giorni, 8 ore, 32 minuti, 45 secondi. Perché vi siete messi in mente di raccogliere tutte le promesse dei politici, Govoni? Sì, ma allora l'idea è nata in modo un po' banale, diciamo, leggendo un quotidiano online, avevo visto una notizia alla quale era stato collegato un timer che appunto misurava il tempo trascorso dall'annuncio alla sua eventuale realizzazione. L'idea è stata poi quella di stenderlo a tutte le promesse dei politici. E quindi con questo, insieme a alcuni amici, è nato, abbiamo deciso di creare questa piattaforma web, ed è nata bachecapolitica.it, che non è altro appunto che uno strumento dove chiunque può caricare una promessa, vengono chiaramente filtrate, e il sistema non fa altro che appiccicarci un timer per misurare quanto tempo passa dalla dichiarazione all'eventuale realizzazione oppure smentita. Qual è la promessa che regge da più tempo, è stata fatta e che per ora non si vede la luce? Allora, diciamo che noi oggi abbiamo circa 300 promesse che hanno caricato gli utenti, abbiamo caricato sulla piattaforma. La maggior parte, quindi quasi il 75%, sono ovviamente ancora in corso, perché poi essendo promesse... Certo, nella campagna elettorale, chiaro. Esatto. Verranno realizzate se mai le persone vinceranno. Esattamente. Diciamo ci sono alcune promesse che sono lì da un po' di tempo, come ad esempio quelle che quella di Bersani, appunto, dell'assicurare la cittadinanza ai figli degli immigrati, e poi troviamo anche promesse abbastanza, tra virgolette, vecchiotte, ad esempio il fatto che di togliere l'IMU da parte di Berlusconi, in realtà è una promessa che è stata fatta in 141 giorni fa, ovvero Berlusconi a settembre dichiarò... Sì, la prima volta lo disse. Esatto, lo disse la chiusura dell'IMU, quindi in realtà non era proprio una novità. E via dicendo, quindi diciamo mediamente le promesse, anche perché noi abbiamo aperto da settembre, quindi... Perché non mettete un bel... cioè c'è anche la promessa, qualcuno promette anche di togliere o ridurre le province, mettete una bella facciona che ride così... ecco, questa sarebbe una bella promessa che non è concretizzabile in giorni o con timer, però... Oppure tagliare il numero dei parlamentari, Amadori si potrebbe fare... non è molto scientifica come misurazione, però si potrebbe fare. Ecco, è una però, buona idea. È una buona idea. Però, Amadori, ci sono anche quelle promesse. Cioè, perché il 50% degli italiani non credono più a queste promesse? E questi italiani che non credono più, che fanno? Ma allora, non ci credono più perché avviene comunque un meccanismo di verifica ex post di quello che viene annunciato ex ante. Noi la chiamiamo tecnicamente customer satisfaction, cioè soddisfazione dei consumatori, e vale per l'acquisto di un'automobile così come per la fruizione dei servizi di quel particolare segmento di offerta che è appunto la politica. Troppe volte alle promesse non sono corrisposti i fatti, quindi a mano il capitale di credibilità dei players politici è andato riducendosi. Questo spiega perché la metà degli italiani non è più disposta a investire fiduciariamente. La prova ex post ha dimostrato un basso coefficiente di attendibilità. Che cosa fanno? Sono alla ricerca di una diversa forma di offerta della politica, meno basata sull'annuncio top down, cioè del leader carismatico dall'alto del suo centro decisionale propone delle soluzioni. Sono più interessati a quello che noi oggi chiamiamo societying, cioè la co-costruzione del valore. Più processi partecipativi, più decisioni condivise, più meccanismi di consultazione. È esattamente il meccanismo che sta cercando di sfruttare Beppe Grillo, non tanto come leadership individuale che resta classicamente carismatica, quanto proprio come processo di inclusione di gruppo. Esattamente, di inclusione di gruppo. E vorrei poi ripartire da Marco Govoni tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico, anche con i vostri contributi degli ascoltatori. 800240024, credete ancora alle promesse dei politici in campagna elettorale? Vorrei capire da Govoni anche se ci sono delle promesse invece che sono state mantenute, che su Bacheca Politica, o delle promesse che non sono state mantenute e per le quali c'è già il bollo certificato di sì o no, tra poco. Eccoci qui, siamo con Alessandro Amadori, che è direttore di Coesis Research, istituto di ricerca, e Marco Govoni, fondatore di bachecapolitica.it. Sentiamo qualche ascoltatore anche che ci ha chiamato, parliamo delle promesse dei politici in campagna elettorale. Giovanni da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci, Giovanni. Niente, a me non interessano che mi tolgano l'IMU, che ho pagato 100 euro quest'anno. Preferirei che mi togliessero l'addizionale regionale, l'addizionale comunale, che sono circa dai 500 ai 600 euro all'anno in busta paga. Vabbè, diciamo, questa intanto è una scelta proprio meramente economica, preferisce una riduzione più corposa. Ma al di là di questo, lei, Giovanni, come principio crede ai politici? È disposto a dare fiducia quando sente o Berlusconi, Monti, Bersani, no, chiunque? No, beh, guardi, ormai no. Berlusconi è scartato a priori. Sono un autista di autobus. L'ultimo aumento di stipendio che ho visto è stato nel 2007, penso. E guardi, ho un mutuo da pagare, due figli, e arrivare a fine mese sono io un eroe, è un'impresa, guardi. Comunque lei non crede più tanto a queste promesse. La ringrazio, no, Giovanni, no. La ringrazio. Vorrei andare a Pavia da Martina, buongiorno, la provincia di Pavia. Martina, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, grazie per darmi l'opportunità di dire due cose. Anch'io non credo assolutamente alle promesse di Berlusconi, credo che questa volta abbia veramente esagerato. Intanto mi aspetto ancora che mi tolga il bollo auto, come aveva promesso l'ultima volta prima delle elezioni, mi aspetto ancora che mantenga le promesse con il famoso contratto con gli italiani, perché avrà realizzato forse un 20% di quello che aveva programmato, quindi insomma sinceramente non ci credo. È ancora lì che attende il bollo auto. Grazie, sì, Martina. Sì. Andrea Milano da Marco, buongiorno. Marco. Buongiorno Milan. Sì. Allora, io non credo più, come credo, spero, il resto degli italiani alle promesse, ma non solo di Berlusconi, ma di tutti quei politici che... Qui Alessandro Amadori ci ha detto che il 50% più o meno degli italiani non credono più. Gli altri sono disposti in misura varia, come ci ha spiegato prima, a dare fiducia, chi più, chi meno. Credo che Amadori abbia ragione e spero che abbia torto, nel senso che spero tanto che molti più italiani non credano più a questi politici, perché le faccio io una domanda: come si fa a credere a una persona che guadagna 20.000 euro al mese e che non produce nulla, nel senso... stretto del termine. Beh, stretto. Beh, insomma, non è che si produce. Allora, sì, neanch'io produco nulla. Nel senso, non costruisco bulloni, è così. Però, sai, i politici dovrebbero essere quelli che producono le leggi, che sono la base delle istituzioni democratiche, Marco. Poi che lo facciano o no, questa è un'altra questione. Sì, purtroppo sì, è così. Comunque, io non ci credo. Non ci credo più. Lei non crede più. Grazie. Anzi, aggiungo, mi scusi se posso finire velocemente. Questi signori sono ancora lì solo ed esclusivamente perché in Italia non si fa la rivoluzione. Non sto parlando di quella vera, non di quella, come dire, tranquilla. E questi signori stanno lì perché sono fortunati. Vabbè, la rivoluzione. Grazie, Marco. Andrei, tornerei allora. Marco Govoni, ci sono delle promesse che già sono state disattese, certificate da voi, da bachecapolitica.it? Sì, assolutamente. Allora, diciamo, nelle promesse non mantenute, ovviamente c'è solo l'imbarazzo della scelta. Diciamo, quella, la prima che mi viene in mente, forse credo che sia anche un record, quando Passera dichiarò, che era il 5 ottobre, che l'IVA non aumenterà, in una dichiarazione pubblica, e dopo 7 giorni c'è appunto l'aumento dell'IVA. Ah, 7 giorni? Insomma, neanche poco, neanche, non ci ha messo tanto, insomma, essere smentito. Poi ne abbiamo di quelle invece un po' più lunghe, ad esempio Lombardo, quando dichiarò che non si sarebbe più ricandidato e si sarebbe andato ad occupare del suo grumetto, l'ha detto, 223 giorni. L'ha detto qui a questi microfoni, esatto. Anche, vado esatto. L'ha detto qui e dopo 223 giorni, sempre a questi microfoni, qualche giorno fa ha detto: sono stato obbligato a ricandidarmi. Esatto. Vabbè, quelle poi, però sono più promesse, come dire, adesso non è che vorrei dire da marinaio, però uno può, più che una promessa, è un cambiare un'idea, no? Uno può cambiare idea da questo punto di vista. Sì, non è una promessa, vi tolgo questa tassa e poi non la tolgo, è più un'idea, ha cambiato idea, questo è legittimo. Certo. Diciamo che ad esempio anche le primarie del PDL, dopo varie dichiarazioni nelle quali sarebbero state fatte le primarie, fu disattesa, diciamo, la cosa. E Alessandro Amadori rientra anche nelle promesse dei politici, quelle mi candido, non mi candido, facciamo le primarie, non facciamo le primarie. L'elettore premia anche questa altalenante serie di idee, opinioni, oppure questo rientra nella logica umorale del fatto che uno può dire una cosa, poi può cambiare un'idea il giorno dopo? Ma diciamo, l'elettore non considera queste prese di posizione come degli impegni nel senso della promessa. La promessa elettorale è un patto di marketing, è proprio un elemento di offerta, come se una marca facesse una promozione o lanciasse un nuovo modello di qualcosa. Mentre queste posizioni di tipo più strategico, diciamo, non hanno lo stesso impatto né positivo né negativo delle promesse. Rientrano però in un concetto di reputation, di credibilità. Gli elettori in generale vogliono chiarezza, vogliono coerenza, chiarezza, linearità. Più il leader si discosta da un modello atteso di chiarezza e linearità, e meno il suo capitale di fiducia risulta. Ma io, Amadori, guardi, non è che voglio sfasciare tutto, ma chiarezza, linearità e credibilità nella politica attuale, per carità, non faccio nomi, ma dove la si trova? Infatti lei ha ragione, questo è il motivo per cui ancora oggi il 36% circa degli italiani non ha ancora deciso se andrà o meno a votare e per chi voterà. Infatti, e il 20%, pur avendo già espresso un'intenzione di voto, sarebbe disposto a cambiare in caso di un'offerta alternativa. Quindi gli italiani sono effettivamente in cerca di nuove leadership più coerenti, più lineari, più pragmatiche. Queste elezioni non risolveranno il problema della politica italiana, sono ancora un momento di transizione, in cerca di un nuovo rapporto fra cittadini e politica. Eh sì, questo 30% in cui si va a pescare negli ultimi 20 giorni. Io do un'altra idea, no, ma un'idea, poi fate quello che volete. Marco Govoni su Bacheca Politica, visto prima ridevo dalla questione della faccia. C'è anche il nostro contadino, non so se lei l'ha mai sentito, il nostro contadino di Terni, il nostro amico che una volta ci ha mandato un accorato appello nella nostra segreteria telefonica, evocando per tutti i politici che gli hanno rotto, insomma, che non sono più credibili, che cosa? La mitica zappa, sentite. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Ecco, questo, Marco Govoni, è ciò che il nostro contadino di Terni anonimo ci ha mandato come idea: la zappa da 7 chili per quelli che non rispettano le promesse. Intanto vi ringrazio, Alessandro Amadori, per essere stato con noi, e Marco Govoni, vi ricordo, se volete, bachecapolitica.it, andate a studiarvi questo sito molto interessante per cercare di capire ciò che i politici dicono e non fanno. Grazie, un saluto da tutta la redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni, a domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.